sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Il 17 marzo sarà festa nazionale per l'Unità d'Italia, chiuse scuole e uffici. Il governo ringrazia Roberto Benigni per il Mameli Show. Primo sì al piano Alfano per la giustizia, ma per la maggioranza una nuova tegola. Mille proroghe in voto alla Camera senza il voto in commissione. Boom record per il fatturato dell'industria nel 2010, cresce come 10 anni fa. Scandalo affitti e politici, il più albergo Trivulzio fa tremare ancora Milano, oggi saranno diffusi tutti i nomi. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Il 17 marzo sarà dunque festa nazionale, l'avete sentito anche nella nostra breaking news. Dopo tante polemiche, forse non ancora finite, il governo ha preso in Consiglio dei Ministri la sua decisione. Ci sono anche altre novità politiche, ne parliamo tra poco. Cominciamo però da qui, andando proprio a Palazzo Chigi, dove c'è Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Dunque, così a poco meno di un mese dalla ricorrenza, il nodo è stato finalmente sciolto. Il 17 marzo sarà festa nazionale piena a tutti gli effetti, quindi con scuole e uffici che rimarranno chiusi. Una decisione che ha però spaccato il Consiglio dei Ministri, visto che i ministri leghisti hanno votato contro. Una follia incostituzionale, ha commentato Roberto Calderoli, un decreto privo di copertura in un paese che ha il primo debito pubblico europeo. Ma il titolare della difesa, La Russa, spiega che la questione della copertura finanziaria è stata superata con il trasferimento degli effetti economici dalla festa del 4 novembre al 17 marzo. Quanto alla posizione della Lega, ha detto nessuna frattura, solo diversità di opinioni, ma chiediamo rispetto. Ma sentiamo lo stesso ministro La Russa. Sarebbe stato veramente quasi comico, per esempio, immaginare che la festa dei lavoratori si celebrasse stando a casa e invece la festa di tutti si celebrasse andando a lavorare. Sarebbe risultato abbastanza difficile da capire. E chissà se a dare lo stimolo decisivo sia stato proprio lo show di Benigni di ieri sera sull'inno di Mameli. Sentiamo su questo il ministro della gioventù Meloni. Penso che valga la pena, per quello che insomma molti milioni di italiani hanno visto ieri, valga la pena di ringraziare Roberto Benigni per la passione con la quale ha raccontato questa storia e ha raccontato la storia di questi giovanissimi. E allora risentiamolo Roberto Benigni. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, che Dio la creò. E dicevamo, se qualche polemica ancora c'è per la decisione del governo, sentivamo il no della Lega alla festa nazionale il 17 marzo, a seguire Benigni in TV. Ieri sera invece c'è stato davvero un pubblico record. Allora andiamo a Sanremo, prima di proseguire con la pagina politica. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno, vi posso anche dare i dati di questo pubblico record. Il massimo è stato 19.737.000 spettatori quando Benigni parlava di Garibaldi e Marchion, questo è stato il picco dell'ascolto, e mentre Benigni cantava l'inno di Mameli, il picco dello share, cioè della percentuale, il 65-66% di tutti coloro che guardavano la televisione. Sei persone su 10 davanti alla TV a seguire l'inno di Mameli. Esattamente così. Le prime reazioni, Gianni Morandi ha detto: Benigni lo farei vedere nelle scuole. Il direttore di Rai 1, Mauro Mazza, ha commentato: quando è un attore comico che si incarica il peso di ricordare la storia, vuol dire che la classe dirigente di questo paese, gli intellettuali, queste cose non le dicono da tempo. Poi il commento dei trionfatori finora del Festival di Sanremo, Luca e Paolo, in particolare Luca Bizzarri, ha commentato: prima di Benigni pensavo che questa festa, quella dei 150 anni dell'Unità d'Italia, fosse meno importante, che contasse di meno, poi Benigni mi ha convinto, ha avuto un valore enorme non per la TV ma per il paese. Grazie Marta Cagnola, torneremo tra poco con te a Sanremo per parlare invece delle canzoni in gara. Torniamo invece di nuovo ora a Palazzo Chigi, perché la decisione, dicevamo, 17 marzo, festa nazionale per l'unità d'Italia, non è stato l'unico argomento e l'unica polemica sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi. Sì, dal Consiglio dei Ministri anche primo disco verde alla riforma della giustizia. Il Consiglio dei Ministri approva infatti all'unanimità la relazione del guarda sigilli Alfano, separazione delle carriere di giudice PM, doppio CSM, inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, responsabilità civile dei magistrati. Questi i punti principali della tanto riforma illustrati dal Ministro della Giustizia, appunto, mentre una riunione straordinaria del Governo dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni vero e proprio del provvedimento. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. E grazie ad Alessandra Schepisi. Nel giorno intanto in cui il governo accelera sulla giustizia, arriva però una nuova tegola per la maggioranza e arriva dalla Commissione Bilancio della Camera. Che è successo, Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno. Coalizione di governo dunque senza i numeri sufficienti nelle commissioni bilancio ed affari costituzionali. Nella prima la maggioranza è sulla carta sotto di un voto, nella seconda commissione vi è una perfetta parità. Per evitare brutte figure, PDL e Lega hanno puntato allora a non far votare le commissioni, preferendo andare direttamente in aula alla Camera la prossima settimana, dove i numeri per il governo sono abbastanza sicuri. Il decreto mille proroghe dunque, ed è un fatto questo con pochi precedenti, arriverà in assemblea senza i relatori di maggioranza. Saranno i due presidenti delle commissioni ad illustrare i contenuti. Senza il voto delle commissioni, tra l'altro, andranno in aula tutti gli emendamenti che saranno presentati al testo, di qui la matematica certezza che sarà posta la fiducia per evitare che venga bocciato il provvedimento che è in scadenza il 27 febbraio. Al di là dei tecnicismi, la situazione ha un'evidenza politica importante, si conferma la quasi impossibilità per l'esecutivo Berlusconi di operare con tranquillità, almeno qui alla Camera. Si è trattato di un incaglio tecnico, commentano però dal Popolo della Libertà, l'esecutivo è immobile, attacca invece l'opposizione. E da Roma è tutto. E da Roma andiamo a Milano, dove il Pio Albergo Trivulzio, 19 anni dopo le tangenti a Mario Chiesa che scatenarono Tangentopoli, torna al centro di uno scandalo che riguarda questa volta l'affitto di appartamenti di proprietà dell'istituto. La lista di 1064 nominativi di affittuari, tra cui diversi VIP, è stata consegnata dopo molte resistenze al presidente del Consiglio Comunale di Milano, Manfredi Palmeri. Sarà diffusa questo pomeriggio alle 16, ma Paolo Piacenza lo ha intervistato. Ieri mi è stata consegnata personalmente dal presidente del Pio Albergo Trivulzio, professor Trabucchi, un plico che, secondo quanto mi è stato comunicato, contiene l'elenco dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà dell'azienda di servizi alla persona. Io l'ho ricevuta e ho voluto riceverla alla presenza del segretario generale del Comune di Milano, l'ho immediatamente sigillata senza aprirla. Abbiamo posto a margine le nostre firme, adesso è custodita in luogo idoneo e sicuro a Palazzo Marino e sarà prelevata da me per le ore 16 affinché possa consegnarla direttamente alla Commissione Demanio, che ho già convocato per oggi appunto a quell'ora. Devo dire che avere rallentato questa procedura ha generato dubbi e sospetti, vediamo se adesso saranno fondati. Se venisse confermato che ci sono politici che hanno goduto di condizioni di affitto di grande favore, qual è la sua valutazione? Se si accerta che vi è un sistema, e questo al di là della suggestione della data, perché vi è questa curiosa coincidenza tra il 17 febbraio del 2011 e il 17 febbraio del 1992, bisogna capire se effettivamente era un sistema che ha prodotto malefici alle casse dell'ente, che ricordo eroga un servizio sociosanitario importante, quindi ne avrebbe avuto un danno, e benefici d'altro canto a taluni soggetti. Se poi questi soggetti hanno avuto questi benefici in virtù della loro posizione, è chiaro che vi è anche un tema legato a una gestione orientata a variabili non di correttezza, neutralità, oggettività e trasparenza. Un anno e sette mesi per Flavio Del Bono, ex primo cittadino di Bologna, è arrivata la condanna per uso illecito di denaro pubblico. A dicembre i legali avevano trovato un accordo con il pubblico ministero, avevano patteggiato per quei viaggi fatti da Del Bono, usando denaro pubblico, quando era vicepresidente della regione Emilia-Romagna con la sua ex compagna ed ex segretaria Cinzia Cracchi. Oggi il GUP ha detto sì a quell'accordo. Del Bono era accusato di peculato, truffa aggravata, intralcio alla giustizia e induzione a rilasciare false dichiarazioni per le pressioni e le offerte fatte, secondo l'accusa, alla Cracchi affinché tacesse. L'ex primo cittadino aveva già versato un assegno di oltre 46.000 euro a titolo di risarcimento alla regione, una cifra che comprende il danno patrimoniale, il danno di immagine e anche gli interessi. Ma la storia non finisce qui, perché a breve dovrebbe arrivare per Del Bono la richiesta di rinvio a giudizio nel secondo filone di inchiesta del Cinzia Gate, che riguarda il bonus mantenuto dalla Cracchi anche dopo essere stata spostata dalla segreteria del sindaco. Come se non bastasse, a Del Bono viene anche contestata l'ipotesi di corruzione per i suoi rapporti con il manager Mirko Divani, intestatario del Bancomat, che Del Bono affidò per anni alla Cracchi per permetterle di prelevare denaro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il fatturato dell'industria italiana nella media dell'intero 2010 è aumentato del 10,1% rispetto all'anno precedente, un aumento record. Tempo di consuntivi sul 2010 per i grandi indicatori della statistica, in attesa dei dati sulla finanza pubblica validi per l'Europa dell'euro, che saranno diffusi il 1 marzo. Dopo il preliminare del PIL stimato all'1,1%, è stata oggi la volta di fatturato e ordinativi per l'industria. Lo scorso anno gli ordini hanno registrato un aumento del 13,9% rispetto al 2009. Il fatturato è salito del 10,1%. Si tratta in entrambi i casi dei risultati più elevati dal 2001. Lo ha comunicato l'Istat, aggiungendo che sia gli ordini che il fatturato sono stati trainati dalla componente estera, che si è mostrata più gagliarda rispetto a quella nazionale. Sugli ordini buoni anche i dati mensili, che seguono più da vicino i flussi. A dicembre hanno segnato un aumento del 5,4% rispetto a novembre. Meno bene invece il fatturato, che è calato dello 0,3% congiunturale. Giovanni Bracco, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come promesso, torniamo a Sanremo da Marta Cagnola. Marta, eccoti. Allora, con Roberto Benigni a dominare la scena, che ne è stata della serata delle canzoni? Ma devo dire, ieri sera era una serata molto particolare, è stata quella delle canzoni dedicate ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Vi ricordate le polemiche che c'erano state? Cantiamo Bella Ciao, cantiamo Giovinezza. Ebbene, non è successo niente di tutto questo, le polemiche sembravano particolarmente lontane. C'è stata una sorta di competizione, ha vinto Albano con il Va Pensiero, ma insomma era una competizione che non aveva particolarmente valore, anzi molti nemmeno se ne sono accorti a casa che c'era qualcuno che poi è stato premiato. Due canzoni molto molto molto applaudite, in particolare sono state applaudite Roberto Vecchioni, che in omaggio alle sue radici napoletane ha cantato Sfruttato Innamorato, e La deliziosa notte dell'addio, cantata da Luca Madonia, diretta da Franco Battiato. Sono stati forse i due momenti più alti, più belli della parte musicale della serata di ieri. Questa sera sarà un'altra serata particolare, perché come ormai tradizione, quella del venerdì è la serata dei duetti. Ma cosa succede? Si esibiranno in duo solo i cantanti che non sono stati eliminati, quindi non ci sarà l'attesissimo duetto Patti Pravo con Morgan, che a questo punto neanche quest'anno salirà sul palco dell'Arista. Non ce l'ha fatta, neanche questa non volta. Non ce l'ha fatta neanche quest'anno. Grazie a Marta Cagnola. Le 13:18 minuti, le notizie di oggi di GR24. Il 17 marzo sarà festa nazionale per l'Unità d'Italia. È arrivato il sì del Consiglio dei Ministri, ma il governo si è spaccato, la Lega ha votato contro e intanto ha ringraziato però Roberto Benigni per il Mameli Show, seguito da oltre 15 milioni di telespettatori. Primo sì al piano Alfano per la giustizia, ma per la maggioranza una nuova tegola, mille proroghe in voto alla Camera, senza in voto in Commissione, dove non ci sono i numeri. Berlusconi dice riforma subito anche l'immunità. Gli egiziani tornano in piazza Tahrir, la rivolta in Libia, vittime negli scontri. Un messaggio dell'italiana rapita 2 settimane fa nel Sahara, a trasmetterlo è stata la TV Al Arabiya. Maria Sandra Mariani, Je suis l'italien qui a été enlevé le mercredi 2 febbraio 2011. Il messaggio è proprio quello che state sentendo. La donna Maria Sandra Mariani conferma in francese, lo sentite, di essere ancora detenuta da Al-Qaeda per il Maghreb islamico. Nel messaggio c'è anche la rivendicazione del gruppo. La Farnesina per ora mantiene il massimo riservo. E torna, dicevamo, a popolarsi Piazza Tahrir al Cairo, ma in rivolta è anche la Libia. Allora torniamo anche a fare il punto sulle rivolte nel mondo arabo con Gigi Donelli. Sì, buongiorno Anna, in attesa di riavere in collegamento il nostro Alberto Negri che continua il suo viaggio appunto nella grande capitale del mondo arabo, del Cairo, vi do effettivamente alcune notizie. 2 milioni in piazza stamattina per la preghiera, chiaramente venerdì, quindi giorno di festività e di riunione, ma anche altre notizie diciamo meno vistose ma interessanti. Sono stati arrestati, è stato infatti ordinato l'arresto di 3 ministri e di un deputato da parte della Procura Generale del Cairo e si parla appunto di figure legate all'entourage di Hosni Mubarak, l'uomo d'affari Ahmed Hez, già responsabile di una commissione della Segreteria Generale del Partito Nazionale Democratico, è forse la figura più significativa. È interessante e sarà comunque da seguire come notizia perché si tratta diciamo delle prime misure successive all'instaurazione della giunta. Giunta che nel frattempo evidentemente tempo cambia anche nel mondo militare, apre un profilo su Facebook. Abbiamo parlato tante volte di come un elemento centrale di tutti questi movimenti sia la giovane età di molti partecipanti e l'utilizzo degli strumenti digitali. Bene, la giunta ha deciso di aprire appunto un suo profilo per comunicare, per avvicinarsi alle folle, che si vedrà naturalmente gli esiti, ma sicuramente è un segno dei tempi. Per quanto riguarda la Libia di cui parlavi pochi istanti fa, la conferma da un lato dei morti, sarebbero infatti 24 i manifestanti uccisi e decine i feriti negli scontri con le forze di sicurezza libiche, in particolare 15 morti sarebbero stati appunto provocati dalle forze di sicurezza del colonnello Gheddafi ad El Baida nel est del paese, questo per indicare come appunto la situazione non riguarda solamente i principali centri della Libia. I comitati rivoluzionari libici, quindi il braccio operativo del colonnello, minaccia, avverte, sarà una reazione violenta e fulminante la nostra nei confronti di quelli che definiscono gli avventurieri che dimostrano contro il regime. Ma potremmo davvero andare avanti per molto, non lo farò, ma andando a sud basta citare per esempio il Bahrain. Il Bahrain non è solo un gran premio di Formula 1 come la maggior parte di noi ritiene, ma è un arcipelago dove effettivamente inizia la stagione di Formula 1. Oggi per esempio molti quotidiani britannici e scozzesi appassionati di motori titolano sul rischio che non si corra nessuna gara, anche in quel caso si parla di una protesta, di giovani professionalizzati. Ieri hanno sfilato i medici, hanno sfilato quindi dei professionisti. E in un'altra area, dove quindi è un'altra scintilla. Un'altra area, non dimentichiamolo, il Bahrain è esattamente a metà strada tra l'Arabia Saudita e l'Iran. Insomma, una lunga linea che sta riguardando sempre più paesi. Un'onda. Grazie a Gigi Donelli. Il fronte italiano, intanto, di tutte queste vicende è stata un'altra notte senza sbarchi a Lampedusa. L'ultima imbarcazione con a bordo una ventina di immigrati approdata ieri sera alle 19 al porto dell'isola, scortata da una motovedetta italiana. Nelle ultime ore le condizioni del mare sono peggiorate, un elemento che induce a escludere nuovi approdi. Questa mattina intanto la Commissione Episcopale per le Migrazioni della CE e la Fondazione Migranten hanno sollecitato un decreto flussi straordinario, chiedono che si possa offrire regolarmente un lavoro agli immigrati. E torniamo così alle vicende italiane. La si attende da più di 40 anni. Ora finalmente il piano c'è, così l'autostrada tirrenica da Rosignano Livorno a Civitavecchia potrebbe essere pronta già nel 2016. Abbandonati i progetti faraonici, sarà realizzata più semplicemente sull'attuale Aurelia. Il presidente della società Autostrade Tirreniche, Antonio Bargone, lo ha intervistato Laura Bettini. Il piano finanziario adesso prevede un costo di circa 2 miliardi di euro. Negli ultimi anni il grande problema è che poi dopo però non arrivano materialmente questi soldi, rassicurazioni. Questo era un'opera che era, per cui era previsto all'inizio un contributo dello Stato del 60%, poi però tenuto conto del fatto che non ci sono risorse pubbliche, che quindi non sarebbe mai stata realizzata quest'opera, c'è una proposta in project integrale da parte della SAT, quindi non c'è bisogno di contributi pubblici, anzi non sono previsti, e quindi sarà realizzata tutta in project financing. Poi c'è un ultimo capitolo che è quello del pedaggio, in particolare per i residenti. Avremo lo stesso orientamento che abbiamo avuto per il primo lotto, cioè l'esenzione per i residenti per un certo periodo. Quindi sarebbe a tempo, diciamo, determinato questa esenzione? Sì, a tempo determinato. In modo che la gente si abitui, che siano pronte le strade accessorie per questo? Esattamente, sì. Un altro nodo quanto mai aperto, dati e numeri sui call center, sono stati presentati questa mattina. Nicola Filippone. Buongiorno, sì, partiamo dai numeri: 9.000 posti di lavoro persi negli ultimi due anni, 13.000 attualmente a rischio. È la situazione di emergenza in cui versa il comparto dei call center in Italia, così come emerge in un rapporto sui call center in outsourcing presentato dalla SLC CGL, la sigla che tutela i lavoratori delle telecomunicazioni. L'occasione è stata la terza conferenza nazionale dei lavoratori dei call center, tuttora in corso a Roma. L'emergenza colpisce molte città del meridione, ha sottolineato il segretario generale della SLC Emilio Miceli, su questo fenomeno pesa anche la delocalizzazione, ovvero il fatto che ci sono call center italiani aperti all'estero, Albania, Tunisia e Romania in testa. È perciò importante, come ha affermato anche il leader della CGL, Susanna Camusso, presente questa mattina, che il governo affronti il problema. Tre le linee di intervento principali individuate dalla SLC CGL: ricostituire, così come concordato con governo in precedenza nei mesi scorsi, con governo e altre sigle sindacali, ricostituire un osservatorio nazionale sui call center, riconoscere a quelle aziende che decidono con accordi specifici con il sindacato di garantire l'occupazione e lo sviluppo in Italia forme di sgravi contributivi che permettano alle realtà più sane di mantenere l'occupazione, e infine determinare a livello nazionale un'unica tabella di costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti del settore dei servizi di customer care, vietando assegnazione di commesse sotto le soglie individuate. È tutto qui da Roma, linea allo studio. Grazie a Nicola Filippone. Il risultato, come sempre, del nostro sondaggio questa mattina, Mattino 24, vi abbiamo chiesto: fa scrivere all'alunno sono un deficiente, professoressa condannata, è giusto? Ha risposto di no l'82% dei nostri ascoltatori. Parliamo ora di Due Ruote, un marchio storico del motociclismo italiano. La moto Morini esce di scena, anche l'ultimo acquirente che si era fatto avanti per rilevarla, la Garelli, si è ritirato dalla trattativa. Un altro marchio storico che se ne va, la moto Morini, la popolare azienda fondata nel 1937 a Bologna, andrà all'asta il 13 aprile con un prezzo di base di 5,5 milioni. In vendita ci sarà anche tutto il resto, marchi, disegni, progetti, impianti, tutte le cose che insomma fanno il patrimonio di un'azienda. Posta in liquidazione il 17 maggio 2010, si era fatta avanti la nuova Garelli di Paolo Berlusconi, ma la trattativa si è presto arenata e ora siamo ai titoli di coda. Il marchio Morini fa battere il cuore degli appassionati, perché è un marchio storico, di quelli cresciuti tra guerra e dopoguerra, come Gilera, Moto Guzzi, Benelli, Piaggio e Lambretta, moto e scooter che hanno attraversato l'Italia, fedeli compagni di viaggio di operai, artigiani, preti, postini, studenti e turisti, moto per lavorare ma anche per divertirsi o fare qualche scorribanda sportiva. Se i nostalgici ricordano la gloriosa T125 del 1952, i ragazzi degli anni 70 ricorderanno i mitici corsari e corsarini. Era un'Italia così, che s'affacciava, coi capelli al vento, negli anni del grande evento della contestazione, ma dietro, pronte al sorpasso, c'erano già le moto giapponesi. Dario Ceccarelli, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. E noi ci fermiamo qui, in regia Peter Bescapè. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Vi lascio con Italia in controluce, GR24 come sempre torna alle 14. GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.